Capelli bagnati di pioggia, sopra la pelle solo un abito blu. Una luce di fredda promessa, la donna capisce le sue intenzioni, un letto un'ora poi mi pagherà. Esce da un albergo, un relitto a lei, coi soldi nel pugno, l'ha fatto per lui, per il suo bambino, ha venduto amore che amore non è. d'improvviso s'accorge che il suo bambino ha un pallido viso, non apre più gli occhi, disperata continua a chiamarlo per nome, ma lui non sente più, sta volando lassù. Gente, diventi un po' di pane. Ma nessuno saprà pensare che quell'uomo ormai finito, forse forse un giorno era migliore della gente come noi. Suona la campana sopra la città, è finito un giorno ma un altro ne verrà. Conta solo questo per l'umanità, e l'indifferenza tutto il mondo ucciderà. Dietro l'angolo di un paese c'è un giardino senza sole, e ci sono soltanto croci, non c'è nemmeno un fiore. Sono morti in una guerra e non è la loro terra. Ogni croce di legno bianco è una storia sconosciuta. Suona la campana sopra la città, è finito un giorno ma un altro ne verrà. Conta solo questo per l'umanità, e l'indifferenza tutto il mondo ucciderà. L'angolo della vita c'è un poeta da aspettare, che qualcuno sappia guardare nei sogni del suo cuore. Ma nessuno saprà guardare in quei sogni tanto grandi, forse un poco di poesia salverebbe questo mondo. Suona la campana sopra la città, è finito un giorno ma un altro ne verrà. Conta solo questo per l'umanità, e l'indifferenza tutto il mondo ucciderà. su sei, non vedo mai lei. Per tirare avanti lavoro in un'altra città, corro come un cane per avere acqua e pane. Sei giorni su sei giorni io non torno mai a casa, e vedo la mia sposa poche ore quando è giorno di festa. Vivo sei giorni su sei lontano da lei. Quella che io chiamo moglie è un'estranea per me. Prima di sposarla le dicevo: cambierà la tua vita, un cammino sempre acceso ed un cane fedele, ed avremo 4-5 ragazzini per casa. Io sei giorni su sei desidero lei. Già di sua madre un po' di storia, cresce in fretta insieme a lui il desiderio di sacrare tutti noi. No rispetto lui non ha dell'autorità, per istinto e libertà. Assurdità, muore insieme a noi e non lascia il segno ormai. Gli altri è come se leggesse dentro sé una storia sconosciuta, forse incredula, non so accettarla come se fosse solo nostalgia. Drammi, gioie e delusioni per lui sono ancora solo fogli colorati. dice aspetta che scorra il tempo su di te, dopo forse capirai. Umanità alla ricerca di qualcosa che tempo non è, tempo non è. Speranze in quel tuo viso bianco che si fonde vago con le nebbie del passato. Quanti ricordi nei tuoi occhi ciechi ormai, che tanto han visto ma troppo in fretta sai. Seguivi quello che sentivi dentro te, senza sapere il prezzo caro da pagare. Sfuggi, non so perché, la vita avuta in dono. E se ne per lasciar posto al ricordo. Bye. Jersey's back. Bye.

gente. Il giorno che cambia aspetto, il sole che tinge tutto, tu vivi quello che fai, impari ad amare, dai un nome alla verità. Sono io, quel vecchio io che parla della vita, amico mio, per dirti che di amore ne sai più tu e non hai l'età del mio cuore. Stasera